ora! È ora di avere un sito internet! È ora di vendere i tuoi prodotti online! È ora di farlo da solo! Perché è facile! Perché tu puoi! Con Supersite su aruba.it. Vai Milan, vai, vai, inizia la puntata prima che il mercurio nelle vene mi trasformi in un robot e il 5G mi devasti. Dai Milan, vai! Uno, nessuno, 100 Milan. Di Alessandro Milan con Leonardo Manera. Ci siamo, cari ascoltatori, una nuova settimana di Uno Nessuno 100 Milan, sono le 9:07 minuti e buongiorno siamo Alessandro voi. E buon lunedì, vai di brutto che oggi si lavora, yuppi! Ale, ale, siamo qui fino alle 11 con Miriam Lucchetti, Lorenzo Lespoli e Elisabetta Fusconi in redazione e l'Alpino e Leonardo Manera più tardi in arrivo e oggi c'è anche Maria Piera Ceci, torna il tema della scuola, ne parleremo alle 9:30, tra l'altro vi voglio, come dire, salutare in questo inizio di settimana con la perla solita di ottimismo di Leonardo Manera che su Facebook ha scritto: allora vi siete organizzati per tenere 2 settimane su 3 a casa i bambini? Siete pronti? Io sono stato più ottimista di lui, ho detto perché 2 su 3 e non 3 su 3 a questo punto? Ma di scuola e di che cosa si profila all'orizzonte parleremo alle 9:30. Come dire, ci sono tanti temi da affrontare, 800 24 00 24 per intervenire in diretta. Oggi parliamo anche di tante altre tematiche, parleremo dell'emergenza cocaina, parleremo di Down, figli con la sindrome di Down, parleremo di tante cose, scuola e Ale. I will not be easy and it will not be easy. Non sarà facile, non sarà facile. Oh, io devo dire, forse mi sono fatto prendere la mano su Facebook commentando le immagini di quello che è stato l'evento per quel che riguarda il Covid del fine settimana. Quante persone erano a Roma? Sfida Lucchetti? Quante persone erano in piazza? 1000, 2000, 1500, 2005? Quelli che vengono definiti con una parola odiosa, devo dire odiosa, ormai sdoganata, negazionisti, quando il negazionismo è una cosa molto tragicamente seria da non spendere per questa situazione, secondo me. Comunque, 1500 dice la Questura Lucchetti. Questura Lucchetti dice 1500 in piazza, secondo loro forse erano 7000 a questo punto. Comunque, prendetevela con una sfida Lucchetti, non c'entro io, lei ha decretato, c'erano 1500 persone in piazza. Dai, sentiamo alcune voci, anche se giustamente anche fino a poco fa c'era Massimo Polidoro a dire non bisogna dare voce, ma cosa dobbiamo fare? Siamo in radio, sono andati in piazza, eccoli qua. Baciami Alpino, adesso vengo di lì. Vabbè, ce l'hanno con i 5 Stelle, vengo lì a baciarti Alpino, eh? Sei d'accordo? Io ti voglio baciare, come posso fare? Io ti voglio baciare! E questo virus non ci... Io ho scritto anche il libro 2 milioni di baci, adesso piccola autopromozione. Cosa devo fare? Lo brucio questo libro. Ho scritto il libro 2 milioni di baci, può essere più infelice un titolo così. Questi sono i baci di Rossella Brescia, Li ricordo. Li avevamo messi in una confezione, in una boccetta da vendere a 10 euro a boccetta. I baci di Rossella Brescia che salutiamo. Quindi questa signora vuole baciarsi e quindi... Baci a baci. Poi che c'è ancora da sentire? Sempre dalla manifestazione. Ah, c'era il vichingo che faceva gli esorcismi. Che cavolo faceva? Vichingo. Pape Satan AF! Pape Satan AF! Sai perché la maschera sul bocco? Perché ogni tanto mi devo soffiare il naso! Ah, usa la mascherina per soffiare. Grazie che me l'hai ricordato! Vabbè. Cioè, sì, lui bruciava la foto del Papa, eh? Bruciava la foto del Papa. Vabbè, poi? Si sta facendo questo ai bambini. I bambini non si toccano. E nel sistema non ci devono entrare. A chi li tocca? Nel senso, stava parlando di che cosa? Questa signora. Io ieri ho scritto un post un po' infelice, effettivamente. Non ho augurato, non ho scritto speriamo, ho detto magari queste persone poi cambieranno idea, perché se si assembrano il coronavirus farà il suo sporco lavoro, che purtroppo fa, e magari cambieranno idea. Ma spero di no, ma magari sì. Spero di no, anche se a un certo punto durante la manifestazione è scoppiato un problemino. Scusi, dottoressa, abbiamo un'emergenza. Scusate, non mancheranno. Un medico per cortesia. Ah. Si rechi qua dietro, sopra. C'è bisogno di un medico. Ce ne sarà più di uno. Allora, prego. Spero tutto bene. Ma insomma, a un certo punto c'è stato bisogno anche del medico. Va bene, tra l'altro su questo è intervenuto Beppe Grillo, ma io devo dire, adesso non è una dichiarazione politica, ma Beppe Grillo, finché faceva il comico, secondo me era l'inarrivabile. Francesco, sono l'elevato, Papa, Grillo. Si appella al Papa. E mi rivolgo a te che sei insomma al massimo degli elevati. Non so se hai seguito quella notizia, non so se sia vera, comunque l'hanno pubblicata, che hanno bruciato le nostre fotografie. Ora, finché bruciano la tua, io posso anche capire i contrasti religiosi, ma che bruciano la mia, tu dovresti intervenire drasticamente dicendo che non si bruciano le fotografie dell'elevato Grillo, perché l'elevato Grillo ha creato solo benessere, comicità, amore verso il prossimo. Quindi cerca di intervenire, se non vuoi intervenire tu, fai intervenire l'elevato degli elevati. L'appello di Grillo. Che possa punire queste azioni sgradevoli. L'appello di Grillo al Papa, e se non lui dovrebbe intervenire, secondo Grillo, con l'intercessione del Papa, l'elevato degli elevati. Va bene, dai, si sorride un attimo, ma dite la vostra all'800240024. Io però voglio partire con uno spunto che è stato rilanciato da un editoriale di Beppe Severdini qualche giorno fa sul Corriere della Sera, credo sabato. Beppe Severdini ha sviluppato questo tema della cocaina. Lo spunto di cronaca è sono quei festini a Villa di Bologna, con coinvolgimento a base di sesso e droga, di sesso e cocaina soprattutto, e che hanno coinvolto anche ragazzine minorenni. Tra l'altro, su questo devo dire che oggi il Corriere della Sera torna dicendo che i party con questa 17enne, ci sono 30 nomi della Bologna bene che potrebbero venire fuori e sarebbero coinvolti in questa vicenda. E Beppe Severdini parte da lì per dire basta. Come dire, sul tema della cocaina c'è un silenzio anche da rompere. Il consumo personale di droga, scrive Severdini, a differenza dello spaccio, non configura un reato, costituisce un illecito amministrativo ed è bene che le cose rimangano così, ma possiamo fare qualcosa di più. Ed eccola qui la proposta. Perché dopo la terza segnalazione al prefetto non rendere pubblica l'identità del consumatore abituale di cocaina? Non è crudeltà, è autodifesa sociale. Abbiamo o no il diritto di sapere se chi vive e lavora con noi è un cocainomane? Pensate a un medico, un commercialista, un dirigente, un amministratore pubblico, un politico. E su questo tema il direttore del Quotidiano Nazionale Michele Brambilla, sia ieri sia oggi, torna, tra l'altro sul Quotidiano Nazionale c'è un'intervista del questore di Bologna che dice: siamo invasi dalla cocaina, flagello ormai tra gli adolescenti. E Michele Brambilla dice: alcuni antiproibizionisti, quando ho scritto bisognerebbe dire che la cocaina, la droga, tutta la droga fa male, hanno risposto: ma se la vendita fosse libera il fenomeno sarebbe controllato, eccetera, eccetera. Una tesi che non condivido, ma il punto non è questo. Perché nessuno si impegna in una massiccia campagna di informazione sui danni provocati dalla droga, da tutte le droghe, come si è fatto con le sigarette? Marco Cappato, buongiorno. Buongiorno. Benvenuto. Io tra l'altro questo tema lo inizio oggi, ma domani magari sentirò Michele Brambilla. Voglio continuare perché è un tema sparito dai giornali, come sempre, sì, ma molto molto interessante. Allora, tanto che ne pensi della questione? Tu sei contrario all'idea Severgnini di pubblicare i consumatori. Perché? Intanto rispondiamo a Brambilla, la prevenzione si riesce a fare sulle droghe legali, perché si fa sul tabacco? Perché c'è il pacchetto e possiamo imporre al venditore di tabacco di scrivere delle cose sul pacchetto. Non possiamo imporlo all'andrangheta e alla mafia, alla camorra. Ma per venire alla... Cioè, scusa, no, giusto per dire, dice, se fosse legale partirebbero anche le campagne di dire: caro ragazzo, però anche se la trovi in farmacia non farti di marijuana. Soprattutto arriverebbero al consumatore, perché le campagne si fanno ogni tanto, le campagne antidroga, e sono la cosa più inutile del mondo, perché non arrivano ai ragazzi, alle persone, arrivano ai consumatori di sigarette perché arrivano direttamente sul pacchetto che comprano, sì, ma non perché così si fa generica propaganda antidroga. Ovviamente le droghe fanno male, alcune fanno più male di altre, ma le informazioni, la conoscenza si riesce a fornire sui prodotti che sono legali, non su quelli che sono commerciati dalla criminalità, anche perché di quelli, della qualità di quelli si sa spesso troppo poco, e poi ci sono le morti di overdose, eccetera, e le vanno a spacciare davanti alle scuole, ma le droghe illegali, non le droghe legali. Sì. Per arrivare alla questione di proposte da Severgnini, ha un nome preciso che si chiama l'agonia, cioè mettere al pubblico indice dell'infamia collettiva la persona che ha commesso un reato. C'è l'infamia, c'è anche, dice Severgnini, e un po' è condivisibile, l'autosicurezza, cioè non è una questione solo privata, se uno si droga e poi va a, non so, è un chirurgo e va in sala operatoria, non è solo una questione privata. Intanto, anche se questo fosse il discorso, non si capisce perché parliamo della cocaina e non parliamo al tempo stesso dell'alcol, no? Perché è chiaro che se il guidatore dello scuolabus è completamente ubriaco, se è fatto di cocaina, sono entrambe fanno i test, sono situazioni entrambe ugualmente pericolose, e è già previsto che rispetto a delle professioni che possono mettere a rischio la vita degli altri ci siano controlli ed eventualmente sospensioni e sanzioni, ma ci mancherebbe altro, a parte il fatto che già oggi una delle sanzioni amministrative, quella più ricorrente, è proprio il ritiro della patente. Quindi qui non stiamo parlando di mettere sotto tutela la vita degli altri, perché su questo ci sono già delle norme che consentono di farle. Quello che propone Severgnini è una generalizzata gogna pubblica, cioè un indice pubblico, non so dove, su internet, sull'anagrafe del comune, dove metti i nomi e cognomi di quelli che si sono stati beccati alla terza volta, con il risultato che magari una persona che non fa assolutamente un lavoro che mette a rischio gli altri, o magari addirittura un disoccupato che sta provando e sta lottando per uscire, per curarsi, per uscire da quella malattia, il lavoro magari semplicemente non lo troverà mai. Cioè, gli effetti perversi di questo tipo di sanzioni morali collettive le hanno provate bene nei regimi totalitari. Allora non ci possiamo indignare se perlomeno per chi si indigna, io mi sono indignato se un ex ministro dell'interno va a citofonare a casa di uno e dice: tu sei uno spacciatore, in diretta televisiva, e poi mettiamo all'indice la gogna pubblica per coloro che hanno commesso il reato, perché poi allora perché non lo facciamo per gli altri reati? Ci sono tanti reati che possono essere pericolosi. Insomma, alcuni reati sono sulla fedina penale, insomma, uno può conoscere, diciamo, la fedina penale di una persona. Certo, certo, uno può conoscere, e nell'ambito di quelle che sono le misure oggi, la pubblicità dei processi, eccetera, eccetera, ma non è che noi abbiamo diritto, cioè c'è anche un diritto, diciamo così, all'oblio una volta che la persona ha scontato una pena. Il punto di partenza, scriveva Severnini, ma poi il tema lo svilupperemo anche nei prossimi giorni, è questo: se chiedete alla polizia quando ci sono gli scatti di ira nel traffico, le risse, c'è stata anche a Colleferro un'uccisione, un brutale pestaggio, io non lo so in quel caso se c'entri o no la droga, però dice Severnini, se poi parlate con la polizia andate a scoprire che dietro a questi comportamenti della persona che ci sfila a fianco nelle città, spesso c'è l'assunzione di cocaina che genera poi appunto un cambiamento nel comportamento del carattere. Comunque ne parleremo nei prossimi giorni, Marco, rimani con noi, perché noi, io ti avevo chiamato e ti ho chiamato insieme a un altro ospite, perché volevamo prendere spunto anche da un articolo molto interessante. Cambiamo tema, diciamo, entriamo sul tema del che società del futuro vogliamo e su temi bioetici, se vogliamo. Giulio Meotti ha scritto un articolo molto interessante sul Foglio, uscito venerdì, che riguarda la Danimarca, ma dalla Danimarca possiamo pensare a quello che succede a tutti noi. In Danimarca si va verso una società senza bimbi Down. Perché? Perché il 98% dei genitori, da quando è stata data la possibilità di fare le analisi prenatali, tra l'altro mettendole anche gratuite, fanno sapere, lo spiega il presidente dell'associazione delle ostetriche, il 98% delle donne incinte a cui è stato diagnosticato il rischio di una sindrome di Down ha scelto di abortire. Il risultato è che negli anni si arriverà sempre di più a una società senza Down. Il titolo dell'articolo è la società, la Danimarca, diciamo, gli ultimi 18, perché l'ultimo anno sono nati dai registi 18 bambini con la sindrome di Down. Insieme a Marco Cappato ne vogliamo parlare. Io voglio salutare Alejandra Gutierrez, che è un'attrice, è stata anche a Hollywood, modella, vive da tanti anni in Italia, ha fondato, da mamma di Leonardo che è affetto dalla sindrome di Down, una fondazione, l'associazione Heartbeat Moving Children, per aiutare tutte le persone con la sindrome di Down a fare attività sportive, musicali, accedere all'università. Buongiorno Alejandra, grazie di essere qui. Buongiorno a tutti, grazie per l'invito. Intanto la sensazione di sentire una società senza bimbi Down, che cosa le suscita come reazione, Alejandra? Ma intanto veramente si sono persi i valori sentimentali, e veramente considero più di tutto che Dio ci dà la vita e solo Dio ce la può togliere. Io penso che un po' si sta perdendo anche la carenza di che queste persone potrebbero assolutamente nascere e essere aiutati e vivere una vita normalmente felice. Sono le persone splendide, e magari fossimo noi anche vicini al cuore sentimentale del tipo di persone che sono le persone con sindrome di Down. Mi sembra che sia un fattore assolutamente economico, egoista, è quello che comporta a un domani dove le persone, ovviamente queste famiglie, non si sentono più appoggiate dal governo, di aiuti e molto meno di quello che lottiamo sempre, che è per l'inclusione scolastica. Se non hai veramente aiuti, queste famiglie si ritrovano da soli. Da sole, certo. Sì, perché è innegabile che di fronte a un annuncio del genere, cioè uno va magari a fare la diagnosi e dicono guarda che c'è una probabilità che possa avere la sindrome di Down, sicuramente c'è un momento di difficoltà, no, da affrontare, questo è innegabile. No, io considero che se non ci fossero le associazioni in ogni paese, io sarei anche sicuramente queste associazioni non avrebbero mai più il supporto economico che riceviamo qua, per esempio in Italia, in tantissimi paesi non ce l'hanno, ma non c'entra tanto una questione economica. Io penso che sia qua stiamo andando a un discorso oltre di cuore, no? Perché abbiamo tutti il diritto alla vita. È veramente triste, e mi hai trovato in una situazione dove per me non esiste. Io considero che anche se una persona non vorrebbe neanche avere di fianco una persona con sindrome di Down, deve essere aiutata, anche perché sono fantastici, danno tanto amore, sono persone normalissime. E poi hanno estreme risorse. Vorrei sentire Marco Cappato su questo, perché chiaramente Marco Cappato qui incide sul tema della libertà. La libertà di scelta, un principio sul quale tu non vuoi mai retrocedere di un passo, anche giustamente su tante battaglie. Io ovviamente c'è il massimo di sostegno per Alejandra, la sua associazione, quello che lei fa. Io ritengo che la scelta debba essere dei genitori, in particolare della madre, e quello che ha fatto la Danimarca è una cosa molto semplice, cioè evitare che la diagnosi prenatale la possa fare solo chi ha i soldi. E quindi non è qui la scelta se mettere al mondo un figlio down o no, come questi dati dimostrano, non è un fatto economico, è un fatto di scelta individuale. Io non mi sento di giudicare questa scelta, cioè il massimo di sostegno e anche di encomio da un certo punto di vista per chi affronta questo tipo di scelta, ma non la possiamo obbligare. Anche a me non piace giudicare, credo neanche Alejandra voglia giudicare. Alejandra, c'è un giudizio verso chi nel caso in Danimarca decide, o in Italia ovunque, decide di non mettere al mondo un bambino nel momento in cui lo scopre? C'è un giudizio morale negativo da parte sua? No, io quello che penso che qua intanto dovrei spiegare due cose che dobbiamo assolutamente separare, ok? Io quando parlo che è il motivo per il quale la Danimarca sta facendo una scelta del genere è per non ritrovarsi con gli alti costi che comprende avere le persone con sindrome di Down a livello sanitario. Un po' è così. E qui c'è sta la, secondo alcuni, la brutalità della scelta. Qualcuno commenta: e allora cosa facciamo? Anche i bambini diabetici? No, perché poi costano per il sistema sanitario nazionale. Prego. Lei ha tanta ragione in quel ragionamento che sta facendo. Io penso che sia una questione anche di ignoranza, perché le persone con sindrome di Down sono persone che si possono avere una vita anche totalmente autonoma, però loro si ritrovano con delle persone che ovviamente, per esempio qua in Italia, una persona con sindrome di Down, dipende dall'età, l'INPS per esempio aggiunge un percentuale che se va ogni anno va crescendo, inizia da quasi 500 euro e parte fino al fine di vita di queste persone, dove raggiungono avere un suo compenso economico ogni mese più la sanità. Per loro ovviamente fino a 10 anni vengono aiutati normalmente in Italia sempre a fare tutti questi tipi di controlli. Sì. Io penso che una parte potrebbe essere legata a una questione economica, sì, però lei ha tanto ragione al dire che ci sono tante altre patologie. Io penso, vengo a dire che potrebbe essere che questi test costano più o meno 1.000 euro qua in Italia, chi se lo vuole fare. Io penso che ci sia anche una questione economica legata anche a questo, certo, che se lo danno anche gratuitamente, sarà un guadagno anche su questo. Sì, e su questo Cappato dice però è una scelta di equa possibilità per tutti. Cappato, però, una società che sceglie, magari pensando ai costi dello Stato, quale vita è meglio da tutelare dal punto di vista economico, non è un bello stato, se ci fosse questa considerazione. No, Alessandro, non è la società che sceglie, è ciascun genitore e ciascuna mamma. Oggi però ci il sono. Genitore sceglie non pensando ai conti pubblici, no? Il genitore sceglie pensando alla propria vita e quello che succede. Però lo Stato invece pensa magari ai conti pubblici. Ma non è lo Stato che decide se quel bambino sarà messo al mondo o no. Lo Stato ha il dovere, a mio avviso, di non imporre una scelta a qualcuno. Se oggi ci sono delle tecnologie che consentono di conoscere prima lo stato di salute dell'embrione, e questo riguarda anche malattie mortali che, dopo le quali il feto, cioè il nascituro poi sopravvive magari pochi giorni o poche settimane, è una scelta assolutamente ingiusta e discriminatoria pensare che l'analisi genetica preimpianto sia accessibile soltanto per chi se lo può permettere. Però ti chiedo questo, lo Stato che dice ok la rendo gratuita perché è costosa, e penso quindi, diciamo ti agevolo a portare a prendere una decisione, e io Stato penso che se prendi la decisione che per me sarà economicamente più vantaggiosa poi mi sta bene, ecco, è questo il tipo di discorso, non è che lo Stato impone di non far nascere, perché certo, però la cosa importante è che la scelta della persona sia libera. Io penso che dei genitori che trovano nell'analisi genetica preimpianto un referto che può riguardare tantissime malattie, sono di fronte a una scelta terribile, importante, delicatissima, e devono essere liberi di scegliere. Non possiamo imporre a una donna di far nascere un bambino se non si sente nelle condizioni di farlo. Allora, io vorrei nel concludere, Alejandra Gutierrez vuole ricordarci gli estremi dell'associazione che lei ha promosso, Mamma di Leonardo, ripeto, come contattarvi, come aiutarvi, come informarvi, informarci. Sì, io il mio sito che è hmc21.com, dove normalmente abbiamo il nostro sito in Facebook, non tutti sanno scrivere Harvey Moving Children, certo. Però per quello abbiamo deciso di fare hmc21.com. E io vi lascio con questo, io penso che il diritto alla vita ce l'abbiamo tutti. Io stai parlando con una persona che particolarmente non è che voglio mettermi nella scelta delle persone, però il diritto di vita a tutti ce l'abbiamo, piuttosto è meglio avere il bambino e darlo in adozione, però le persone con sindrome di Down sono persone che hanno queste cromosome in più, però che sono proprio di amore, di tutto ciò che alle volte, della innocenza, di quello che a tanti di noi ci manca. Sì. E non penso che in nessun momento la scelta dovrebbe essere neanche mai fatta neanche in Italia, signore. Io sono partita che chi parte a darti la scelta è perché pensi che sta per avere qualcosa di non buono. E quindi e questo mi fa ancora più paura. Però dopo entro in sistemi che io non voglio entrare. No, ma è chiaro, ma questa è la sua posizione. Esatto. E io ringrazio Alejandra Gutierrez, ricordo www.hmc21.com, lì trovate tutti i dati della sua associazione. Ringrazio Marco Cappato, associazione Luca Coscioni, e ci risentiamo nei prossimi giorni. Pubblicità. Uno, nessuno, 100 Milan. Allora, alle 9:37 minuti c'è qui Maria Piera Ceci. Buongiorno, buona settimana a te e a tutti gli studenti che stamattina sono tornati a scuola, perché davvero stamattina no, discrimini. Gli insegnanti sono troppo depressi, secondo me. Personale alta, i presidi. Sì, anche i presidi, poveracci. Che è? A scuola! Ci hanno perso anche il tutti? A scuola, ma mica tutti, perché oggi si comincia dai più piccoli. Le scuole materne di molte regioni del nord si comincia, in realtà anche qualche scuola superiore in nome dell'autonomia è riuscita a far tornare gli studenti a scuola, anche qua a Milano. Stamattina è stato bello, mentre venivo vedevo dei ragazzini con lo zaino. Vabbè, sarò romantica, però una piccola emozione me l'ha data, devo dire. Pensa all'uomo meno romantico. Stamattina è aumentato il traffico almeno del 50% a Milano, e quindi mi arrabbiavo per le strade. Invece la romantica ci vedeva vedevo i marciapiedi, questi ragazzini allegri con gli zaini. Ho detto via, dai. Io ero lì che dici guarda, prove di qua, normalità. C'erano tre macchine davanti al semaforo, oggi 10. Ecco qua. Perché tu prendi i mezzi, io non li prendo. Quindi, e poi è anche uno stile di vita. Il tuo, tu sei polemico di natura. Io invece sono sono buona, insomma, a vedere questi ragazzi, erano carucci, dai. Erano carucci. Si è iniziato anche a Bolzano. Salutiamo il sindaco Renzo Caramaschi. Buongiorno, ben ritrovato sindaco. Buongiorno sindaco, anche lei ha visto ragazzini in giro e si è emozionato? Sono tornato bambino, ho visto i bambini che per la prima volta andavano alle scuole materne o alle prime elementari, alcuni piangevano, altri erano sorridenti e li ho incoraggiati, è stato un bel vivere. Ci credo che piangevano dopo sei mesi con la mamma. Ma va tutto bene, cioè adesso ovviamente le dovremmo dire come va con i mezzi di trasporto, come va col distanziamento, cioè lei è tranquillo, non è che oggi si aspetta già qualche chiamata? Ho già i dati, non abbiamo avuto un forte incremento del traffico perché abbiamo fatto una campagna pubblicitaria di potenziamento dell'uso della bicicletta per i più adulti. Il 30% di trasporto a Bolzano avviene con la bicicletta e quindi poi abbiamo potenziato i pedibus, quelli con i nonni vigili che accompagnano i bambini e li raccolgono durante il percorso e li accompagnano a scuola. Devo dire abbiamo rinforzato il numero dei nonni vigili nei punti cruciali, però non abbiamo avuto per ora criticità, teniamo presente che è solo il primo giorno di scuola. Certo. Quindi però, sugli autobus tutto tranquillo, perché insomma molti ragazzi delle scuole superiori soprattutto arriveranno anche da qualche paese vicino, un po' quello no al nodo, no? Ecco, com'è andata lì? Sono riusciti a salire scaglionati? Allora, il famoso 80% di ingressi, come andato? Però abbiamo fatto un appello di lasciare l'uso degli autobus ai ragazzi e agli studenti, soprattutto ai più adulti, ma soprattutto abbiamo differenziato l'ingresso nelle scuole di almeno un'ora, quindi si parte dalle 7:15 e si va avanti fino alle 8:45-9 per gli studenti più grandi che dovranno poi cessare le lezioni alle 3 del pomeriggio con un po' dura, però in quell'ora chiaramente si scagliona meglio il traffico e c'è una diluizione dell'intensità. Beh, dai, ma lei aveva capito, Caramaschi, che cosa sono questi distanziatori mobili che avrebbero dovuto fare così il loro ingresso su questi autobus? Che io non l'ho ancora capito. Lei no, guardi, l'importante è che ci sia un senso di responsabilità. L'80% degli posti auto è dei posti degli autobus è garantito, però deve essere tenuta la mascherina, quello è fondamentale, così come a tutti gli ingressi, che poi sono differenziati ingressi in entrata e in uscita. Abbiamo 13 strade chiuse quando per un quarto d'ora quando c'è l'accesso alle scuole, e quindi tutto sta a avere un senso di rispetto per se stessi e per gli altri. Certo, se queste regole vengono chissà se ce l'avevano la mascherina, ragazzi. No, qualcuno potrebbe dire vabbè, ma a Bolzano sì, non cadiamo nei soliti luoghi comuni, però a Bolzano magari l'ordine e la disciplina tutto funziona vedremo, noi glielo auguriamo ovviamente, sindaco. No, non è che sia una città così disciplinata, però una certa vocazione ce l'ha l'ordine, devo dire, almeno come vocazione. Quindi nei momenti critici rispondono bene, così come nel lockdown siamo stati molto severi e ne siamo usciti severi anche adesso. Bene. Senta, sindaco, non è roba sua, però glielo chiedo lo stesso perché uno sguardo gliel'avrà buttato. Questi studenti che stanno tornando a scuola oggi, ce l'hanno i loro professori sulla cattedra oppure è un ritorno finto per i tanti posti vuoti? No, non è un ritorno finto, no. Proprio si riprendono le lezioni, oggi naturalmente hanno come primo giorno di scuola un orario ridotto, però da domani si prende a ritmo pieno e quindi ci sono i docenti e sono stati volontariamente tutti tamponati per verificare una positività, obbligatorio nelle scuole materne ovviamente, e quindi ci sono tutte le misure di sicurezza che il governo con il suo protocollo riprese dalla l'hanno provincia. Fatto il test, sì, gli insegnanti? Sì, l'hanno fatto. Meno male, questa è una buona notizia. Sindaco, noi la ringraziamo, Renzo Caramaschi, sindaco di Bolzano, una delle prime città dove sei partiti da oggi, così come in tutto l'Alto Adige e Trentino Alto Adige. Salutiamo, spostiamoci invece in Veneto, Maria Piera Ceci. Non tanto lontano, da lì. Vo Euganeo, se io dico Vo Euganeo, tutti quanti sanno come è stata, come dire, Codogno in Lombardia. Prime zone rosse, evocano brutti pensieri, ma adesso li scacciamo invece con queste nuove immagini tant'è bellissime. Tant'è vero che lì il Presidente dello Stato, il Presidente della Repubblica Mattarella, andrà a inaugurare l'anno scolastico. Lunedì prossimo. Alfonso sì, D'Ambrosio, sì. Buongiorno, lei è il Presidente. Buongiorno. Alfonso, buongiorno. Buongiorno. Volevamo chiamarla alle 14, ma sarà troppo impicciato. No, abbiamo detto che abbiamo su prima. Scusi Mattarella, devo fare un collegamento con la CG Milan, ma siamo tranquilli. Però in realtà oggi si è ripreso con i bambini piccoli. D'Ambrosio. Allora guardi, oggi io le dico adesso perché per radio non si può insomma, mostrare le immagini, ma si possono raccontare. Io adesso davanti a me vedo qui in, diciamo nel nostro bel giardino c'è una maestra che diciamo accanto ai bambini che stanno insomma giocando sullo scivolo. E sono insieme alla mamma e a qualche papà, ecco, perché noi abbiamo aperto insomma in accordo con le indicazioni dell'ufficio scolastico, ma anche della regione del Veneto, la scuola dell'infanzia in anticipo. Per quale motivazione? Fondamentalmente per una motivazione di cura, no? Educativa, cioè noi abbiamo detto per fare l'inserimento, insomma, perché sono perché a casa da aprile, certo, da febbraio in realtà. Quindi solo i bambini dell'infanzia piccoli e piccolissimi, cioè i medi e i grandi, entreranno giovedì. Questo perché? Perché chiaramente abbiamo nel caso di voi 19 bambini, poi ce ne sono altrettanti anche a Cinto e all'Ozzo, quindi 50-60 bambini, e Cinto e l'Ozzo sono gli altri due comuni del mio comprensivo che dirigo. E quindi chiaramente insomma è un rientreranno molto, il 10 perché poi si dovrà sospendere l'attività naturalmente per l'arrivo di Mattarella. Esatto. Allora andiamo a quelli più grandi intanto, Alessandro, esatto. Che dici? I più grandi che arriveranno appunto il 10. Da voi sono arrivati i banchi monoposto e sono arrivati anche i famosi banchi con le rotelle, così chiudiamo qua subito la polemica, Alessandro, non ci pensiamo più. Com'è andata? Allora, da noi sono arrivati 120 banchi senza rotelle, con 120 sedie. In realtà stiamo aspettando 40 sedute di tipo innovativo, ecco, quindi sedie con ribaltino con le ruote, però noi li abbiamo comunque acquistati grazie, ecco, ai nostri tre comuni lungimiranti e con i fondi dell'istituzione scolastica. Quindi banchi con le rotelle che a voi servono per, mi spiegava, per mantenere il distanziamento, quindi non è, insomma, tutte queste polemiche. I banchi con le rotelle servono per consentire, perché sono più piccoli, quindi per consentire di mettere, sì. Cosa mi aveva detto? Sì, ma la parola chiave oggi. Guardi, anche sui giornali dico... è ritardo. Ritardo, in Italia ritardo, siamo in effetti... in ritardo. Da lei però i monoposto sono arrivati, quelli tradizionali. No, adesso sono arrivati e le dico, nel caso degli arredi con i banchi con le rotelle, a noi ci hanno permesso, ecco, in assoluta sicurezza, anche parlando con l'ingegnere, il mio RSPP, di far stare una classe pollaio, stiamo parlando di una terza media di 29 alunni in 52 metri quadri, con i banchi tradizionali non entravano. Quindi benvengano sti banchi con le rotelle, insomma, lì... le hanno consentito di mettere dentro 29 bambini, ragazzini. Scusi, ovviamente presi, i bambini non hanno le mascherine perché sotto i 6 anni non hanno le mascherine, no. Però fanno il controllo, la misurazione della temperatura, certo, d'ingresso col termoscanner, e come l'hanno fatto anche la mamma o il papà, ecco. Ma quello non dovrebbe essere fatto a casa, no? Viene fatto anche lì a scuola. Perché c'è l'inserimento oggi. Ah, certo, ecco perché c'è l'inserimento. Sì, i piccolini non te lo ricordi più, Alessandro. No, fortunatamente no. Hai altri inserimenti tu per quest'anno, fortuna, ma ne parleremo. D'Ambrosio, nota dolente, il personale scolastico, oggi i giornali sono pieni di questa cosa, no? Sì. Mancherebbero 60.000 cattedre, perché sugli 85.000 nuovi insegnanti pare che ne stia arrivando uno su quattro. Vabbè, poi questi numeri sono sempre un po' ballerini, lasciamoli perdere, la chiamata veloce non ha funzionato. Come va da lei? Parliamo anche insomma, no, delle medie e della primaria. Quanta gente, quanti insegnanti le mancano? Purtroppo non va bene, perché a fronte di un iniziale 33% di organico che non c'era il primo settembre, adesso è arrivato qualcosina, ma mancano comunque ancora un 20% di docenti e personale ATA, che poi sono loro i collaboratori scolastici, sono il fulcro un po'. E sono arrivati in realtà invece i fondi per il cosiddetto personale Covid, che devo dire la verità, insomma, ecco, ci aspettavamo un po' di più, sono 70.000 euro lordo Stato, per intenderci, con questi fondi noi possiamo pagare 5 persone per 8 mesi e mezzo, sì. Quindi non è tantissimo. Sì, persone che devono di 110 persone, insomma, tra docenti e personale ATA, quindi ci sono 10 dipendenti, capisce che siamo un po' meno del 5%. Ecco. Poca roba. Allora, noi ci dobbiamo fermare, ringraziamo Alfonso D'Ambrosio, vedremo poi quando arriverà il presidente Mattarella, si mette la cravatta, ovviamente, tutto a posto, si mette. Mostrerà una scuola bellissima, perché davvero è una scuola di eccellenza questa di voi. Cara Maria Piera Cici, ci ritroviamo lunedì. Ciao Alessandro, ci vediamo lunedì, il D-Day. Ci sarà anche un Radio Day su Radio 24. Accidenti, la prossima settimana. Accidenti, traffico. Uno, nessuno, 100 Milan. Semplice per i Novax e i Notax. Se si ammalano vanno sicuramente curati, ma dovranno pagare le spese sanitarie. Caro Milan, perché dovete essere sempre così pessimisti? Solo le cose brutte, tutto andrà male. Cercate di cambiare un pochino. Cosa faremo senza uno nessuno 100 Milan? Dove andremo? Moriremo tutti di noia senza Milan e Manera. Ma perché? Noi siamo qua. Siamo qua, io ci sono, c'è Manera. Siamo qui noi, vivi a lottare con voi. Leonardo, fatti sentire col tuo io non ottimismo. So se ci sono. Io non lo so se ci come sono. Io vorrei sparire, dissolvermi, diventare un ologramma. Questa ma perché? Sarebbe una bella. Ma così, perché non bisogna lasciare troppe tracce di sé. Invece il problema è che tendiamo tutti con i social a lasciare tracce. No, bisogna avere una presenza moderata. Moderata. Io la vedo così. Manera, allora, vi siete organizzati a tenere i vostri figli a casa da scuola 2 settimane ogni 3? Io oggi ti ho risposto, ma perché? Io pensavo 3 ogni 3. 3 su 3. Perché no, 2 su 3? No, perché spiego come andrà. Andrà così, che praticamente si va a scuola la prima settimana, poi ci sarà qualcuno con un colpo di tosse, magari positivo, quindi stanno tutti in quarantena a casa per le 2 settimane successive. Poi si torna per una settimana, ci colpo sarà qualcun altro tosse. Che probabilmente avrà un colpo di tosse e si sta a casa per le 2. Praticamente sì. Sei un ottimista però, 1 su 3 si va. Sei un ottimista. 1 su 3 secondo me si va, sì, quindi sono tendenzialmente ottimista. Tendenzialmente quindi smentiamo ottimista. Anche l'ascoltatore che diceva che siamo sempre pessimisti. Esatto. No, non è vero. Perché l'ascoltatore dice sempre brutte notizie? Vi ha detto Manera che 1 settimana su 3 andranno a scuola i nostri figli. Guarda che ottimismo. No? Anzi, l'ottimismo superiore è quello, è il fatto che ognuno abbia tempo e modo per organizzarsi in quelle 2 settimane in cui, no, in quella settimana in cui i figli vanno a scuola. Sì, sì. Ecco, quindi. Va bene. Leonardo, vogliamo continuare con l'ottimismo? Ti prego, io ti cedo il microfono. Ma solo una cosa, che sì, io sono stupido, io non capisco, non ci arrivo. È una cosa che da quando è uscita questa cosa dei banchi con le rotelle, ma tutti l'hanno pensato, non solo io, ma i banchi con le rotelle non servono ai bambini a spostarsi di più, andare uno vicino all'altro. Beh, ma magari nel cambio... Dello... Sarà vietato. Sarà vietato, ma se io fossi un bambino, ma io lo farei sempre nell'ora di passaggio tra un professore e l'altro, via. Fai sì. Gran premio. È una cosa che mi fa uscire pazzo, come direbbero a Napoli. Non capisco perché i banchi con le rotelle siano più sicuri di quelli senza rotelle, perché quando le piccoli. Rotelle servono. Perché sono più piccoli. Sì, sono più piccoli, ma le rotelle servono a spostarsi, sì, quindi a distanziarsi, ma anche ad avvicinarsi. Ma allora bambino perché? Manera, perché stai attento, qualcuno... fermo! Servono a distanziarsi, ma fermo, bambino Bonetti, fermo lì. Non ti muovere, sì, ma io non andare nella compagnuccia, bambino Bonetti, fermo. Allora, nel cambio dell'ora io mi avvicino, vado attaccato alla bambina che... Bambino sì. Bonetti è vietato, è vietatissimo. Tanto le prossime 2 settimane stiamo a casa lo stesso. Sai che è vietato scambiarsi le gomme, le matite, le merendine? La preside della scuola da me ha detto: gli accattoni delle merendine quest'anno digiuneranno. Sai che ci sono quelli che vanno a chiedere una cosa, le merendine? Gli accattoni, i mendicanti della merendina digiuneranno. Pare che ci sia una regola, non ho capito bene come si sviluppa, per cui i professori, gli insegnanti non possono toccare il cartaceo degli alunni per 48 ore. Attenzione, perché non si può. Vabbè, dai, senti, dici faccio in tempo, in tempo. A che ora chiudiamo? A 57:30, tra 4 minuti. Ce la faccio. Vai. dovrò tagliare qualcosa perché vai. Non vogliamo farlo alle 10? Non vogliamo farlo dopo aspetta le 10? Aspetta un attimo, fammi controllare un attimo. Vabbè, facciamolo sennò dopo le 10, cosa vuoi che ti dica? Allora, facciamo 4 minuti di questa bellissima base. Dai, vai, vai avanti, Alpino. Mettiamo 4 minuti di questa base. Dai, lo taglio. Facciamo così. Quando, no, quando adesso, finisce... adesso non ci stai. Adesso veramente rischi di non starci. Ma raccontaci un po' cosa faresti tu con il banchetto, con le rotelle. Il Gran Premio, e questo l'abbiamo capito. No. Quello è quello che farebbero tutti i bambini, non è una cosa che mi invento io, perché il banco con le rotelle immediatamente ti dà possibilità di movimento, di spostarti, di andare uno verso l'altro e no, contro l'altro. Invece quindi... però questa cosa che mi hai detto del cartaceo, effettivamente io sono andato alla riunione delle medie di mio figlio e a parte questa cosa appunto che i mendicanti abituali delle merendine quest'anno digiuneranno, che mi è sembrata terribile come cosa, ma... non ci si può scambiare nulla, una gomma, un foglio tra studenti. Quindi giustamente quando il prof dirà consegnatemi la verifica, cosa fa? Entra il RIS e la preleva? Ma credo con... che non possa toccare quelle verifiche per un tot di ore. La prende con i guanti, le mette. Le lascia lì per un tot di ore e poi verificherà appunto la verifica. Però sono tutte norme veramente complicate, sì, no? Sì. Scusate se sorridiamo. Guarda questo messaggio, non ho capito perché qualcuno ha pensato ai mancini, cioè i bambini mancini. Sì. Sì, che certo, ci sono questa i banchi, è una cosa che è circolata. Ci sono i banchi per tutti... i destri? Scusa, i banchi... sì, perché i banchi a quanto pare hanno tutti il sostegno per il libro, per il quaderno, sulla destra. Ma non quindi ce l'hanno sotto? Non ce l'hanno sotto i banchi con i... Per esempio da mio figlio hanno i banchi con sotto il ripiano in cui metti i libri. Il ripiano sotto. Sì, ma no, quello sopra in cui ti appoggi per scrivere, la parte sopra, dalle immagini che ho visto, sono sistemate tutte sulla destra. Ma le parti figurati per se qualcuno ha fatto il calcolo dei mancini per sapere voi quanti mancini avete in quella classe, figurati! Ma figurati, aboliamo i mancini, peraltro, come Leo risolve facile farebbe così, aboliamo i mancini. No? Comunque la mia impressione è che siano tutte norme dal punto di vista formale, giuste e corrette, ma poi siano sostanzialmente impossibili da ottemperare, quindi poi ognuno farà secondo la propria scienza e coscienza, come si dice. Assolutamente. Ognuno si affiderà a se stesso. Però bambino Bonetti devi stare un po' fermo con questo banco con le rotelle. Prego. Devo dire che noto che in giro sta ricrescendo preoccupazione e paura rispetto a luglio, perché sabato ero a fare lo spettacolo a Porto Tolle e ho visto persone molto anche preoccupate, ecco, con un distanziamento, tutti con le mascherine. Quindi non so, vedremo come andrà a finire. Certo. Per me sempre non bisogna cedere alla paura, ma comportarsi responsabilmente, come bere responsabilmente, comportatevi responsabilmente, senza paura eccessiva. È stupendo, avevo un messaggio minatorio. Alessandro, ho capito bene che sei andato alla riunione non via web? Sì, sono andato fisicamente perché ai Salesiani hanno organizzato la riunione in presenza. Cioè non è che non credo di avere compiuto un reato. Cara ascoltatrice o caro ascoltatore, sono andato fisicamente, ho preso la macchina, l'ho parcheggiata, sono entrato con la mascherina, mi sono recato nel luogo della riunione, ho assistito alla riunione come tutte le altre mamme o papà. Va bene, adesso c'è questa cosa, non l'hai fatta via web, è tutto il mondo virtuale. Dai, caro Leonardo, dobbiamo andare al giornale radio, poi quando riprendiamo indovina cosa devi fare. Il traffico. No. Nella il monologo vai. Il segnale orario vi è offerto da GS Risarcimento Danni.it, la forza di cui hai bisogno. 1 nessuno 100 Milan. Qualcuno che parla male dell'Azzolina lo troviamo? Dai, datevi da fare, su, forza, dai, un po' di energia, trovate qualcuno che parla male dell'Azzolina, dai! You know I've never met a man who's made me feel quite so secure. He's not like all them other boys, they're all so dumb and immature. Ciao Milan, io vi dico solo una cosa, ma sono certamente certo che la scuola da tutta l'Italia partirà bene, senza problemi. Sì, ci saranno qualche problemini, ma non problemi che stanno esagerando parlando di qua e di là, che la ministra, ministri, ministrina, tutta quella roba lì. Molto esagerato manera, certo, sì, sì, solito esagerato manera. Ma io sai, chiameremo così, esagerato manera. Prego. Pensavo che il Covid ci sta facendo accettare cose che in altri tempi non avremmo mai accettato. Per esempio, che so, Jovanotti che canta Caruso di Lucio Dalla. Ecco, questa è una cosa che in altri tempi non sarebbe passata così sotto silenzio quasi. Non sarebbe passata inosservata, effettivamente. Ah. Cara sfida Lucchetti e caro Alpino, hai tempo, il tempo del monologo di Manera per trovare. Ma a questo proposito, aspetta che torno sulla questione dei Mancini, perché un ascoltatore mi ha scritto, ma sei un polemico, i Mancini. Ma no, io ho detto, figurati se hanno pensato ai Mancini. Nel senso che non che uno non debba pensare ai Mancini, anzi è giusto pensare ai Mancini. Questo Mancino, questo ascoltatore Mancino mi fa notare che l'11% della popolazione è mancina, quindi sarebbe giusto pensare ai Mancini, ma non sono arrivati manco i banchi e le attrezzature e ci abbiamo messo 8 mesi. Dico, figurarsi se sono stati così lungimiranti dal pensare anche alla popolazione mancina. Ma cara e grazia che iniziamo la scuola e che ce la facciamo. Mi dispiace, è triste, ma siamo il paese dei ritardi. Figurarsi se si sono accorti di questa cosa. Cioè... Poi posso dire una cosa alla signora che diceva ironicamente trovate qualcuno che critichi la Azzolina, ma io dico da che mondo è mondo chi governa viene ha criticato. L'onore di governare e anche l'onere di essere criticato in qualche modo, proprio perché governa, perché ha il potere. Adesso il potere ce l'hanno loro, no? Ce l'hanno i 5 Stelle, ce l'ha il Partito Democratico, ce l'ha Libero Uguali e quindi è a loro che compete governare e poi anche subire le critiche, non si capisce perché... Il non si capisce Manera. Perché no, non è del troppo, ma è chi governa che giustamente deve essere anche criticato e bisogna vedere che cosa fa. Il e invece sono persone che... no, perché se ci fosse Berlusconi. Invece la destra al governo sarebbero loro che subirebbero probabilmente critiche, come è fisiologico che ci sia in democrazia. Lui non è Mancino, quindi se adesso è la ministra della pubblica istruzione è la signora Azzolina, è giusto che eventualmente le opinioni eventualmente anche le critiche si rivolgono perché, a lei, non c'è niente di male, non c'è niente di strano, non si fa niente per i Mancini, sono tutti destrorsi come Manera. Vabbè. vai allora parliamo d'altro, altrimenti è passato un altro fine settimana e anche questo fine settimana la frase che ho detto di più a mio figlio è stata non guardare sempre il telefono. Frase che già in sé qualche anno fa sarebbe sembrata molto strana, si sarebbe forse detto non parlare sempre al telefono, non guardare sempre il telefono. Quando ero bambino io, fino a metà degli anni 70, in casa mia non c'era il telefono, se qualcuno ci doveva telefonare, telefonava al bar vicino a casa e poi dal bar venivano a chiamarci. È vero che poi al bar prendevi sempre qualcosa da bere, perciò alla fine... spendevi più di bibite di quello che avresti speso col telefono, ma allora il telefono in casa sembrava una cosa da ricchi. Allora il gestore unico della telefonia si chiamava Stipel e poi Sip. E c'erano anche delle formidabili battute, per esempio pronto Sip, nop. Per risparmiare si prendeva il telefono ma col duplex. Il duplex era una formula per cui il telefono si pagava in due famiglie. Ma se parlava una famiglia non poteva parlare l'altra perché il telefono era occupato. Quindi alla fine si controllava chi il telefono lo usava di più. Inizialmente si faceva il duplex con qualcuno che ti era amico e poi si finiva per odiarlo perché usava troppo il telefono. Negli anni 70 quasi tutte le amicizie sono finite a causa del duplex. E poi finalmente abbiamo potuto avere il telefono in casa, tutto per noi, ma... bisognava stare attenti a non fare più le temutissime interurbane, perché le interurbane, quelle col prefisso, costavano di più. Quando ero adolescente io, per i miei genitori, se volevo potevo farmi le canne, ma non farle interurbane, perché le canne costavano meno delle interurbane. Cioè, mamma, mi sono fatto una canna. Va bene, l'importante è che non faccio un'interurbana. Finché poi sono arrivati i telefoni portatili, i cellulari, alla fine degli anni 80, all'inizio i pochi che ce l'avevano si vergognavano un po', perché non sembravano dei telefoni, erano degli armadi a tracolla che ti portavi in giro. E tra l'altro sembravi uno sfigato perché non ti chiamava nessuno. E quando per caso arrivava una telefonata, era la mamma che ti chiedeva se avevi messo la maglia di lana. Poi i telefoni sono diventati poco alla volta sempre più piccoli e la guerra si è cominciata a fare sulle tariffe. quella che avevano tutti i ragazzi, ce l'avevo anch'io allora, era la tariffa Family, detta anche la tariffa Dracula, del Conte Dracula, perché la potevi utilizzare solo di notte. Di sera fino all'alba del giorno successivo, se telefonavi pagavi pochissimo, quindi potevi telefonare solo quando c'era buio. Ma durante il giorno, se telefonavi, era un salasso. Di giorno si facevano telefonate più sintetiche dei messaggi col telegrafo. Nonna morta, funerale domani ore 15, stop, perché di giorno costava troppo. Ma tutta la vita era completamente diversa solo qualche decennio fa. Non avevamo Sky, non avevamo Netflix, ma a casa mia non avevamo neanche Rai 2, vedevamo solo Rai 1, vedevamo solo Bruno Vespa, che già allora c'era. Io praticamente fin da quando sono nato sono cresciuto sempre con Bruno Vespa, ho visto più Bruno Vespa di mio padre. Di solito i bambini andavano a letto dopo il Carosello, dove non c'erano vere e proprie pubblicità, ma delle piccole storie dove il prodotto arrivava solo alla fine. E la mia preferita era quella dell'Amaro Cinar, dove c'era il protagonista Ernesto Calindri che beveva l'Amaro Cinar in un tavolino messo in mezzo al traffico, contro lo stress della vita quotidiana. Pensate al messaggio che veniva dato. Se sei stressato, bevi superalcolici e vedrai che passerà. Roba che oggi ci sarebbe subito una protesta del Kodakons. E poi se metti un tavolino in mezzo a una strada ti arriva subito una multa perché non hai pagato il plateatico, oppure per ostruzione al traffico. Insomma, non so se eravamo più felici, sicuramente eravamo più ingenui. Ti omaggiamo così, caro Leonardo, ti omaggiamo così. Che hai da dire, caro Leonardo? Niente, ho detto già prima, non devo ribadire se non mi arrivano gli insulti da, no, dai fan di Jovanotti. Senti, senti. Tra l'altro, devo dire invece, ecco, che vuoi gli insulti, dai, prego, prego, fatti insultare dai fan di Jovanotti. No, dai, stavo dicendo al contrario, per farmi ben volere dai fan di Jovanotti. E io anni fa ebbi modo di conoscere Jovanotti e tra tutti i cantanti che ho conosciuto devo dire che è uno di quelli più simpatici, disponibili, con i quali mi è capitato di, di avere a che fare anche solo per qualche... sì, un cerchio bottista. Cerchio bottista. Vorrei leggere però la mail di Roberto. Buongiorno, quando ero al liceo era uso utilizzare l'unico banco singolo presente con le rotelle come portantina. Il più minuto dei ragazzi veniva seduto e portato in processione a spalla per la classe, omaggiando il patrono della città, San Ciro. Il santo pro tempore veniva adornato con collane e cose varie, registro nella mano sinistra e una penna nella mano destra con lo sguardo in estasi. Non avete idea dell'immaginazione di un gruppo di tredicenni. Ecco. Questo succede secondo Manera. I banchi con le rotelle, quando verranno usati, no, non spessissimo immagino, ma serviranno a questo. A questo, va bene. Ottimo, ottimo e abbondante, allegria, traffico. Uno, nessuno, 100 Milan. Allora, 10-18 minuti, c'è da dire, caro Leonardo, che come al solito i nostri ascoltatori ti correggono perché hai fatto un piccolo errore. Sì, vuoi dirci qual è lo slogan di Calindri? Lo slogan di Calindri? Contro il logorio della vita moderna. Questo è quello preciso, però hai sbagliato. Esatto. Prima, non e hai... tu mi hai... Sì, ho detto contro lo stress della vita quotidiana, la sostanza è quella. No, no, no. Un professore mi avrebbe comunque dato 6. 6, no, no, no. Per questo errorino. Contro il logorio della vita moderna. Gli slogan sono sacri, ci scrive un ascoltatore. A proposito... Io preferisco contro lo stress della vita quotidiana. Vabbè. A proposito di ascoltatori, c'è da Milano Maria. Buongiorno Maria. Buongiorno. Eccoci. Che ci vuol a dire? A proposito... delle aperture delle scuole materne a Milano. Sì, sì. Stamattina con tutto entusiasmo i bambini tornano a vedere i propri amici, ma arrivati davanti all'asilo, diciamo, alla scuola materna, hanno detto che non si può entrare perché ci sono i topi. I topi? Ma nella scuola? Nella scuola. Ah, ma cioè lei è una nonna, una mamma, scusi se dico dalla voce mi sembra una nonna. Una nonna. Quindi non sono entrati nipote perché ci sono i topi nella scuola. Sì. Accidenti. Si sono accorti stamattina. Ah. Tra l'altro anche senza mascherina. Ecco, vabbè, sì, ma i topi che scorazzavano senza mascherina. Maria, che sciagura, cioè, no, che sciagura, nel senso che uno avranno fatto tutto per il Covid, tutti pronti, e poi i topi. È una cosa spiacevole, ecco. Maria, la ringrazio per questa testimonianza, per carità, cioè adesso è tutto difficile, ci mettiamo anche questo. Allora, adesso però voglio introdurre un ospite che ci parlerà della vicenda che riguarda la sua famiglia, in particolare suo figlio Arturo. È diventato tutto un libro, si intitola Il coraggio delle cicatrici, io ce l'ho qui davanti, edito da UTET. L'autrice, insieme al giornalista Nello Trocchia, è Maria Luisa Iavarone, che saluto. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno a voi, grazie di questa ospitalità. Lei che insegna pedagogia generale a Napoli, ma sì, che soprattutto racconta in questo libro la storia di suo figlio, madre di Arturo, che un giorno viene sotto Natale accoltellato, 14 coltellate da 4 coetanei, anzi coetanei, uno addirittura 12 anni, nel centro di Napoli. Se cercate un motivo, cari ascoltatori, in questo libro molto intenso in cui all'inizio proprio si racconta l'accoltellamento, non lo troverete, o meglio, non lo troverete nella razionalità, professoressa Iavarone. In realtà forse il motivo lei l'ha capito, che ha, il motivo che ha spinto questi 4 ragazzi a questo gesto. Beh, diciamo, come lei giustamente anticipava, ci sono tutti gli ingredienti per una storia quasi noir. Una storia agghiacciante che comincia, il cui esordio è davvero faticosissimo, dolorosissimo, ed è una vicenda che chiaramente segna irreversibilmente la mia vita come quella di mio figlio. Io lo raccolgo dal sangue e lui vive una serie di esperienze dolorosissime, tra cui il coma, la terapia intensiva, subintensiva e poi mesi e mesi di recupero e di riabilitazione. Ma questo libro in realtà trae solo da questa storia l'unico pretesto, l'incipit. Poi si occupa di molto altro, parla di giustizia, parla di criminalità, di devianza dei minori, di abbandono degli adulti e tutti i temi che fanno di una tragica storia una traiettoria di impegno eversivo, di responsabilità sociale e civile. Sì, forse a pagina 45 la trovate in una frase, una delle possibili spiegazioni di questo gesto, quando lei scrive a proposito delle frontiere a Napoli: qua a Napoli la frontiera non si sa mai dove inizi davvero e dove finisca, sempre se finisce. Perché questi 4 ragazzi, è innegabile, sono alcuni affiliati proprio a un clan, alcuni appartenenti a famiglie malavitose. Sì, questo è un tema vero, cogente, concreto, però è anche vero che ci sono nelle nostre città, quindi non solo a Napoli, dei confini che sono sempre più liquidi, sempre più sfilacciati, sempre più labili tra le diverse comunità che vivono talvolta tollerandosi, talvolta sopportandosi fra di loro. E quindi Napoli è una di quelle città dove in assoluta contiguità ci sono i palazzi della buona borghesia napoletana a ridosso dei passi dove non penetra neanche la luce e dove sono nati, ahimè purtroppo, gli aggressori di Arturo. Io mi sono voluta personalmente spendere anche civilmente per le ragazze, per le storie di questi 4 ragazzi, per i quali sto provando anche a restituire giustizia, perché in fondo, come dico sempre, quello che restituirà giustizia ad Arturo non sono tanto le sentenze che si consumano e si celebrano nelle aule dei tribunali, quanto assicurare a questi ragazzi un futuro e una vita più giusta. Cioè ai ragazzi che hanno aggredito. Tra l'altro ci sono dei passi molto intensi, perché ci sono anche tutte le intercettazioni, i colloqui di questi ragazzi, quando la madre di Arturo, Maria Luisa Iavarone, decide di porre una questione che noi abbiamo affrontato, se ti ricordi, anche Leonardo Manera con il procuratore Di Bella del Tribunale dei Minori di Roberto Reggio Calabria. Di Bella, sì, sì, abbiamo avuto ospite varie volte. Lui porta avanti un programma di sì, un programma per togliere la potestà genitoriale a genitori di figli che nascono e crescono in contesti, come dire, in quel caso di 'ndrangheta. È un'idea che lei porta avanti concreta, e questo le attira su di lei delle, delle posizioni da parte delle famiglie di questi ragazzi che hanno aggredito, molto molto aggressive, molto... Sì, molto certo, infatti io la ringrazio per averla fatta questa sottolineatura. Io sono assolutamente in linea con quello che il protocollo proposto da Roberto Di Bella appunto propone. Bisogna trovare delle misure di responsabilità importanti, no? Che coinvolgano le famiglie di questi ragazzi devianti, e io l'ho fatto esponendomi, tirandomi dietro anche molte minacce da parte di clan e di affiliati alla criminalità locale, che mi sono valsi anche una tutela e un'attenzione speciale dalle parte delle forze dell'ordine. Ma io credo che appunto sia questo il coraggio delle cicatrici, per tornare e parafrasare il titolo di questo lavoro, che abbiamo condiviso appunto con UTET in questo progetto, di cui sono molto grata alla casa editrice perché ha creduto molto in questo nostro impegno. È proprio quello, noi dobbiamo imparare che da questa storia se ne possono schiudere molte altre, e nuove prospettive di responsabilità sociale andranno portate avanti, non ultimo quella di parlare di un argomento scomodo che è appunto la sottrazione dei minori a ragazzi che vivono e crescono in contesti devianti. Arturo, come sta? Perché da lì è nata anche una un'associazione che si chiama ARTUR, senza la O, perché è un acronimo di adulti responsabili per un territorio unico contro il rischio. Cioè, suo figlio, da tutta questa vicenda, a parte le cicatrici che non andranno mai, lui reca moltissime cicatrici, la maggior parte delle quali sono quelle invisibili, come potete ben immaginare, sono quelle con le quali non si faranno i conti per tutta la vita, e io credo che questo libro, come l'impegno associativo, siano un po' un balsamo per quelle ferite. Noi abbiamo provato a dare dignità ad una storia che dignitosa non lo era affatto, almeno nei presupposti e nella vicenda, ma abbiamo pensato soprattutto che questa fosse una delle possibili vie d'uscita per rappresentare il valore di una scelta dolorosa ma coraggiosa, perché il coraggio non può essere delle singole persone, ma deve essere nelle azioni collettive. No, per carità. Ragazzi, oggi sui giornali, Leonardo, l'hai vista anche tu questa storia di Colleferro, sì. Per carità, altre età, altre vicende, le vicende non sono paragonabili, ma questo ragazzo che è stato ucciso a pugni e calci solo perché ha tentato di difendere un amico che vedeva a sua volta aggredito. Ma questo appunto c'entra molto, però c'entra molto col coraggio, no? Quella cosa che dicevamo noi prima, questo ragazzo ha il coraggio di esporsi e fare delle cose scomode semplicemente perché gli sembrano giuste. Difendere però un amico paga con la vita, paga con la vita. Cioè, paga con la vita, poi... perché non c'è il tessuto di comunità intorno che lo sorregge. Ritorniamo ancora una volta al discorso del coraggio e della responsabilità sociale. Il problema è poi ovviamente è soprattutto dall'altra parte, cioè di certi modelli di vita che vengono l'essere aggressivi, l'essere violenti, certi modelli di vita che vengono quasi socialmente accettati in questo nostro periodo storico, perché vuol dire che sei quasi un vincente se sei aggressivo, se sei violento. Guarda, non so, io vedo la prima preoccupante. Sì, vedo la prima pagina del Corriere della Sera, per carità, non è che si può giudicare, ci sarà un processo. C'è la foto di dei due che hanno aggredito a Colleferro questo ragazzo, ucciso a pugni da due fratelli picchiatori, questo è il titolo, cioè che mi viene a dire che cos'è un lavoro, che lavoro fa il fratello picchiatore, cioè, lo so che è terribile fare ironia su questo, ma è impressionante. Vengono sdoganate delle modalità comportamentali e relazionali che oggi più che mai il distanziamento sociale è evidenziato. Vedete quante persone sono aggressive nei riguardi dell'altro semplicemente perché ha abbassato la mascherina o indossa secondo loro o si avvicina troppo a qualcun altro. Ecco, probabilmente questa psicosi anche un po' collettiva della pandemia ha slatentizzato nelle persone delle paure che poi stesso diventano aggressività. Ma lei l'ha capito, professoressa, esattamente il motivo che ha portato questi quattro ragazzi a coltellare suo figlio? Cioè era che, ne so, un rito di affiliazione, un passaggio, sì, che dovevano... Io tendo a definirla, parafrasando Hannah Arendt, la banalità del male. Ragazzi annoiati, vuoti, completamente abbandonati a loro stessi, che a un certo punto in un pomeriggio qualsiasi mettono in scena la rappresentazione del loro stare al mondo in un contesto criminale rispetto al quale questa cosa li avrebbe dovuti accreditare. Ecco, ci troviamo di fronte ad una rappresentazione plastica del dolore, del vuoto, dell'abbandono e anche di quella prevaricazione, di quella protervia che viene in certi contesti considerata un punto di valore, come lei diceva prima. Allora, io cito il libro, poi se volete, per approfondire, Il coraggio delle cicatrici, edito da UTET, e Maria Luisa Iavarone, insieme a Nello Trocchiane, l'autrice e mamma di Arturo. C'è invece per l'associazione Arthur un riferimento sì, internet? Grazie, sì, www.associazionearthur.org è la URL del nostro official site, ma noi teniamo molto a rappresentare il fatto che anche i proventi, per quanto mi riguarda, in questo testo andranno devoluti a progetti di rieducazione sociale. Sono molto grata a Nello Trocchia, perché la particolarità di questo libro, e devo dire, mi permetto, insomma, oso dirlo, un po' un unicum nel panorama anche editoriale, è quello di aver desecretato gli atti processuali, sì, averli portati all'immersione e averli fatti raccontare con la lente sapiente di Nello Trocchia nella chiave dell'inchiesta giornalistica e giudiziaria. Abbiamo, come dallo spioncino della cella, osservato questi ragazzi, ascoltato i loro discorsi, sbobinato le loro intercettazioni ambientali e telefoniche e restituite alle persone perché siano un monito e la capacità di ragionare teologicamente su quelli che sono i motivi, sì, dei loro gesti. Io la ringrazio, la ringraziamo ovviamente, Maria Luisa Iavarone, per essere stata qui. Buona vita, si dice in questo caso. Grazie, davvero. Sono io che ringrazio voi per questa attenzione al giornalismo civile di cui si sente molto, sempre più bisogno. Grazie, grazie ovviamente. Caro Leonardo, è arrivato qui il personaggio che ben conosce, d'altronde sempre con la sua mascherina, con la sua anche arroganza. Io è l'unico, credo che ha continuato. Ecco, credo che Mauro Meazza sia l'unico che ha continuato ad andare in radio. Perché ho per detto tutto arroganza, protervia, e subito tu hai detto Mauro Meazza, non l'ho capito. Per me sono sinonimi. C'era una vecchia battuta, cerca arroganza sul vocabolario, trovi la foto di Mauro Meazza. Ah, sì, è un po' come quella di Calindri, un po' potresti farla in uno slogan migliore. Va bene. Allora, dai, è arrivato Mauro Meazza, questo è il segnale chiaro, bisogna andare a sentire gli aggiornamenti sulla borsa. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta 1, nessuno, 100 Milan. Cari ascoltatori, devo fare un annuncio importantissimo: che Leonardo Manera apra bene le orecchie. Sei pronto? Sentiamo. Caro Leonardo? Sì, allora, ci sono. Come sai, c'era un problema annoso legato alle cuffie qui in studio. Sì. Volevo dirti per che per colpa, tra l'altro, di Sandro Fortunato. Volevo dirti che nel giro di 32 secondi netti Danilo Alicino, senti che bel nome, sembra quasi il personaggio di una fiaba, tra l'altro. Danilo Alicino, è bello, eh? Danilo Alicino è entrato in studio coadiuvato da dietro da Sandro Fortunati, che non è entrato in studio perché deve evitare l'assembramento. È entrato Danilo Alicino, ha preso contezza del problema, si è chinato sotto il bancone, ha fatto due o tre magheggi, ha inserito uno spinotto e le cuffie vanno tutte alla perfezione. Non hai più scuse, sei invitato a recarti immediatamente presso gli studi di Radio 24 per trasmettere la diretta di 1 nessuno 100.000 a partire da domani. Le cuffie sono ma perfette. Danilo Alicino ha fatto anche un po' ordine in tutto quel filame che c'è di cuffie? Perché adesso lo dico agli ascoltatori, voi non sapete com'è quello studio, è uno studio anche gradevole. Vuoi creare il prossimo, vuoi già prospettare il prossimo e successivo problema, il filame di... Guarda che te le taglio. C'è un filame insostenibile, un disordine anche spiacevole. Sì. Quindi non so se in radio sarà c'è qualcuno preposto. A casa sua, con la zucchina marcia da 6 mesi nel frigorifero. Non so se c'è qualcuno preposto a riordinare quel filame che c'è lì in studio. Danilo Alicino, coadiuvato da Sandro Fortunati, sono dei tecnici che risolvono problemi. Adesso, credo che fargli passare lo straccio e mettere a posto il filame non rientri nei compiti aziendali. No, io non ho detto lo straccio, ho detto il filame. Quindi se Danilo Alicino per caso volesse sistemare il problema del filame, vediamo. Chiediglielo, visto che è lì adesso. Se ci chiedono, no, adesso non è andato col via, filame, è andato via 30 secondi. Tra l'altro è uscito, noto anche questo, ha guardato Sandro Fortunati, e gli ha detto: problema delle cuffie risolto. Cioè, con anche una sorta di spocchia ha fatto il ganassa. Sì, ha fatto il ganassa la scuola meazza, ma il sottotesto era stirazza di giornalisti, neanche uno spinotto sanno infilare. Erano frequentato l'istituto Meazza di ganasseria. Come ti avevo detto io, probabilmente erano semplicemente tutte in mono. Cioè, non è possibile che 5 cuffie si rompano contemporaneamente e tutte vadano solo da un padiglione. Chiaramente, ecco, erano tutte in mono, sì. Mancava uno spinotto da inserire nell'apposito buco. Se sei così bravo e sapevi già tutto, perché non l'hai fatto tu? Ma adesso perché non ti aiuta? Dopo perché fare tu... il fenomeno. Allora, adesso poi chiudiamo questa storia che non interessa a nessuno, perché tu entri sempre all'ultimo secondo in diretta, quando siamo già in diretta, e ti lamenti vistosamente delle cuffie. Io non è che posso abbandonare il microfono e dire: cari ascoltatori, aspettate, devo abbandonare il microfono, risolvere un problema tecnico di Leonardo. Comunque è tutto risolto, basta, la questione tranne è chiusa. Il filame, c'è il problema del filame. Ci chiede un ascoltatore che fine abbia fatto Anacleto. Per la verità, da quando siamo ripartiti, in una settimana l'abbiamo già sentito 2 volte, direi anche troppo. Comunque salutiamo anche noi Antonio e tutta la chiesina. Anacleto sta benissimo. Arnaldo dalla provincia di Bergamo. Buongiorno Arnaldo. Sì, buongiorno a voi ragazzi. Complimenti. Eccoci. Per la trasmissione, sempre simpatica e interessante. Grazie, grazie. Prego. È finita così la telefonata. Sono stupende queste telefonate che finiscono così. Quello che voglio dire, è che una società civile, sì, civile nel senso vero della parola, dovrebbe risolvere i problemi, nel senso che la droga, questa gente qui che poi va a botte perché sono in quei giri lì strani. Basterebbe legalizzare la droga. Eccolo. Uno va dal medico o dal suo psicologo, si fa ordinare la droga, vende. E questo è un tema interessante. Io su questo voglio tornare domani chiamerò Michele Brambilla, il direttore del Quotidiano Nazionale. Leonardo, io sono partito con questa proposta Severgnini di dire: rendiamo noti i nomi di coloro che consumano droga. Su questo Michele Brambilla proprio dice: va bene, legalizziamo. Cioè, per lui non è d'accordo, comunque dice: se anche legalizziamo, se le ragazze, per esempio, usate per i festini porno, avessero assunto cocaina comprata in farmacia anziché in una strada, è questo l'obiettivo? Togliere i guadagni a un pusher per darli a un farmacista che paga le tasse? Va bene, ma cosa cambia nel cervello di chi si fa? Questo Arnaldo, comunque chi prende la droga poi va a far riste lo stesso, no? Allora, giusto? Lasciamo perdere i piccoli avvenimenti così, io parlo in generale di pulire questo mondo. Cioè, se uno va dal suo medico, si fa, dice: guardi, io purtroppo sono drogato, mi dia la ricetta per questo, quindi va in farmacia o in un negozio specializzato, compra. Ogni 3, 4, 5 ricette quel ragazzo lì che compra deve andare da uno psicologo, da uno psichiatra, sì, per cercare di recuperarlo. E così via. Cioè, io dico che innanzitutto evitiamo tutti quei mercati lì che sappiamo tutti dove sono. Sì, no? La violenza, chi è contro questa soluzione? La violenza non è per lo spaccio in strada, no? Cioè non si ha, ma cioè, sì, sono sempre quelli lì, quelli lì, cioè fanno parte del nero. Il nero poi sposta in violenza, sposta in stupri, sposta in tutto quel marciume lì. È come le prostitute. Lei vanno a vedere le prostitute per strada. Una volta facevo il rappresentante e le vedevo lì, no? Queste ragazze per lo più di colore lì. Lei vedeva perché faceva rappresentante, perché passava. Sì, perché passavano. E così, anche solo a vedere la distanza facevano schifo. Ma come si fa? lì c'è dentro di tutto, poi si prendono le malattie, legalizzatele, non mettetevi in una casa chiusa, in un appartamento, obbligate a fare una volta a settimana un controllo medico e via. Lei mette insieme tutto, cioè, lei, è un po' una soluzione alla Leo risolve facile, quella di Arnaldo, eh? Hai sentito Leonardo? Cioè, Arnaldo aveva la soluzione facile, tu sei drogato, vai dal medico, farmacia, droga, poi dallo psicologo. Non è così, no, non è così semplice. Comunque io dico ad Arnaldo che sento parlare di legalizzazione che non si farà mai da quando ero adolescente, quindi è un tema di cui si continuerà a parlare credo per sempre, e anche delle case chiuse. Non cambierà mai niente, perché su questi argomenti io credo che non cambierà nulla quando ci per tutta sarà la vita. Lo stretto... nei secoli dei secoli sarà sempre così. Quando ci sarà il ponte sullo stretto di Messina, allora si potrebbe fare. Magari sono collegati, può darsi. Non lo si so. Fa il ponte sullo stretto, automaticamente si legalizzano le droghe e anche la prostituzione. Comunque, può essere che in Italia vada così. Comunque, Arnaldo, mi sembra di poter dire la prenda non come una cosa, ma era un po' confusionario, cioè lei me le metteva un po' tutto insieme. Il tema comunque è interessante, lo svilupperemo. Andiamo al traffico. 1, nessuno, 100 Milan. Signori, sono le 10:46 minuti, con questo ritmo frizzantino ci avviamo alla chiusura anche di questa puntata di Uno Nessuno 100 Milan. Siamo alla seconda settimana della ripresa, secondo me Leonardo Manera è già stanco, manda dei segnali. Questo è vero. Sì, manda dei segnali ogni tanto a dire ma posso saltare un giorno su due, fa un po' come la scuola, posso fare un giorno sì e due no, è così. È così. Vabbè, intanto sono ancora presente. Dovrei fare come feci il primo anno, tu ricorderai. Vediamo. Che una notte mandai un messaggio alla fine dello spettacolo e ti scrissi: domani non ce la faccio perché rientro tardi, sto a casa. Sì, stai a casa. Sì. E io, ricordi? Senza colpo ferire, cosa dissi in onda? Non lo so. Oggi Leonardo Manera è stanco. Sai quando proprio non c'ho voglia, sono stanco. È così, è stanco. Sì, dovrei fare così, invece sono troppo ligio al dovere. Di mattina sono presente. Stamattina, per esempio, avrei dormito volentieri, stavo facendo anche un bel sogno. Sognando che ero al bar Jimmy. Attenzione, sfida Lucchetti. Ascolta bene il sogno, eh. Era allora, il bar Jimmy. Non credo che Freud si sia mai espresso sul bar Jimmy, però. Ero al bar Jimmy. Signor Jimmy, dal bar Jimmy suona la chitarra. E ho sognato che ero lì al bar Jimmy con Jimmy che suonava la chitarra e ci era giunto anche Sergio Sgrilli, che è un comico nonché ottimo chitarrista. Beh. E si è messo anche lui a suonare la chitarra con Jimmy e tutte e tre eravamo lì a cantare. Così. Ecco, ed era gradevole perché c'era la musica. È interessante, della chitarra, però. Chitarra si suona e si canta in un sogno. Freud avrà detto che c'è una relazione sessuale, ovviamente. Secondo Freud, se uno canta e suona, soprattutto la chitarra. Vabbè, nel frattempo ci ha raggiunti il mitico clown Neronello, il nostro amico dei bambini. Buongiorno, signor Neronello. Sono il clown Neronello, l'amico dei bambini. Yup, buongiorno a tutti. Buongiorno. Gli ascoltatori di Radio 24. È la prima volta che ci risentiamo quest'anno. Quindi, per chi non dovesse ricordarsi di me, ricordo che sono un clown per bambini e esco da casa già truccato e appena arrivo nella casa. Adesso ho iniziato tra l'altro a lavorare nelle case, non lo faccio più in smart working, lo sai, caro Milan, sono tornato ad andare nelle case. Arrivo, dico subito un bel indovinello per far divertire i bimbi, per esempio bambini. Sapete dove il maiale porta i figli a giocare? Li porta al porco giochi. Bene. Dopo questa bella battuta, un bambino ha preso la sua faretra medievale attaccata al muro e ha iniziato a scagliare dei dardi verso di me. Allora gli ho detto: bambino, vuoi fare una cosa davvero divertente? Fatti portare all'acquario, poi cospargiti di plancton, mettiti due alghe sotto l'ascelle e tuffati nella vasca degli squali. Stava per succedere l'irreparabile quando è arrivata la madre e mi ha detto: Neronello, lascia stare i bambini, se ti va puoi dare un'occhiata alle mie pinne. Ci siamo appartati nella sua camera a fare un po' di giocoleria acrobatica, ma ormai stava scadendo il mio tempo, i bambini mi reclamavano, così sono sceso e ho raccontato una delle mie favole, le favole del clown Neronello. C'era una volta un regno lontano dove l'inverno sembrava non finire mai. Poi arrivava la primavera e tutto cambiava. La neve si scioglieva al caldo del sole e si faceva una grande festa durante la quale tutti nel paese potevano incontrare il re. I sudditi facevano una gara per portargli il dono più sorprendente perché speravano di conquistare la sua benevolenza. E così il re passava le giornate circondato da oggetti bellissimi, ceramiche decorate con storie di cavalieri, arazzi tessuti a mano con filati provenienti da terre lontane, magnifiche pietre dai poteri curativi. Ma il re possedeva così tanto ormai che niente riusciva a renderlo davvero felice. Poi, un giorno, si presentò a palazzo un giovane di nome Ortodonzio. In paese si pensava che la sua dentatura così complessa fosse solo una leggenda, ma quando lo videro arrivare, tutti i sudditi esclamarono «Oh!» E Ortodonzio disse «Bella raga, sì, anch'io sono contento di essere qui, però adesso passerei alle cose importanti. Sire, ho inventato un cavallo di legno che per magia spiega le sue ali e può portarle in mondi meravigliosi». Il re non riuscì a trattenere la sua curiosità. «Giovane Ortodonzio, presto, mostrami questo prodigio, il cavallo di legno che per magia spiega le ali e può portarti in mondi meravigliosi». Ortodonzio condusse il re sul retro del palazzo, mentre tutti i sudditi rimasero in attesa nella grande sala da ballo. Dopo mezz'ora il sovrano rientrò in preda all'eccitazione. «È stata l'esperienza più bella della mia vita. Ho visto una foresta incantata, delle scimmie che mettevano musica techno e la luna aveva la bocca e con una cannuccia stava sorseggiando un margarita». I sudditi lo guardarono, basiti. «Beh, voi non mi credete», disse il sovrano. «E allora punirò tutti voi, tranne il mio nuovo amico, Ortodonzio, che da oggi vivrà nella suite del castello e riceverà 5.000 monete d'oro al mese per i suoi servigi». «Grazie, sire! Dai che si vola!» Fu così che Ortodonzio si ritirò nei suoi nuovi appartamenti e iniziò la sua vita da nababbo. La sua vita da nababbo continuando a fare quello che aveva fatto per conquistare il re, e cioè procurargli dei funghi allucinogeni per i suoi viaggi psichedelici. Bambini, qual è la morale della favola? Se vi mostrate generosi con il prossimo, verrete certamente puniti da qualcuno di potente. Se invece vi fate un piccolo giro di amici che vi procurano le sostanze giuste, riuscirete a infilarvi in ogni ambiente e farete per sempre una vita da nababbo. Questa è la morale della favola, cari bambini. Arrivederci con la prossima favola e le prossime avventure del clown Neronello. Oh, bene. Una favola molto edificante, molto edificante proporre, sì, sì, a tutti i bimbi in ascolto che oggi cominciano la scuola in alcune città e che quindi potranno usufruire anche dei miei insegnamenti da riportare a scuola. Oh, vorrei invece far presente a Leonardo Manera, questo ci fa sapere Sfida Luchetti, che la chitarra indica desiderio di confidarsi ma timore di non trovare comprensione. Ma secondo Freud la chitarra simboleggia il femminile, in quanto le forme della chitarra sono associabili a quelle della donna e dunque tale strumento musicale potrebbe avere connotazioni sessuali ed erotiche. Freud era un maniaco sessuale. Sarebbe interessante, oggi vado a cercare, oggi vado a cercare che vita sentimentale ha avuto Freud. Sì. Se volete giocarvi all'otto, insomma, in base alla smorfia, chitarra, i numeri sono, perché sono 11, 22, 8? Cioè suonare la chitarra? 11 comporta questi tre numeri? Non sei stata molto chiara. Suonare la chitarra 18 e 69. Però, quindi segnatevi i numeri, suonare la chitarra 18 e 69. Tra l'altro 69, guardo, non so se Freud forse, vabbè. E solo la chitarra invece, solo se sognate solo lo strumento, 11-22-8. Ma tu hai, tu hai sognato di suonare la chitarra, o meno che Jimmy. No, io non suono la chitarra, però la suonavano Jimmy e Sergio Sgrilli, questo comico che è anche un bravissimo chitarrista. Visto che il sogno comunque è legato al suono della chitarra, ma la sentivi nel sogno, il suono? Sì, certo, la sentivo. Che bello. 18-69, questi sono i due numeri magici che vi diamo legati al sogno di Manera. 18-69. Comunque Freud ha ragione, secondo me. È tutto sesso, cioè questo. Poi io mi rivedo in più nella prima interpretazione che è stata data, cioè il bisogno di confidarsi. Anzi, potremmo fare tutti i giorni la rubrica del sogno. Il sogno di Manera. Il sogno di Manera. A domani, a domani. Domani alle 9, domani mattina alle 9, no alle 10 a me! Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it.